Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. In America you call this man Hitch. In America chiamate quest'uomo Hitch. In Francia lo chiamiamo signor Hitchcock. Voi lo rispettate perché ha girato scene d'amore come se fossero assassini e noi lo rispettiamo perché ha girato assassini come fossero scene d'amore. Si tratta dello stesso uomo e dello stesso artista. Quando ho cominciato a girare film, ho pensato che il signor Hitchcock fosse fantastico, forse perché lui pesava più di 100 kg. Così ho cercato di mangiare di più, ho preso circa 5 kg, ma comunque non funzionava. Ho capito che dovevo scoprire un altro modo per raggiungere le sue proporzioni. Così ho chiesto al signor Hitchcock di darmi un'intervista di 50 ore, dove mi avrebbe rivelato tutti i suoi segreti. Il risultato è stato un libro. Di fatto si tratta quasi di un libro di cucina, pieno di ricette per fare film. Ma il più grande segreto del signor Hitchcock è il segreto del cinema stesso. Oggi Destini Incrociati presenta Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock. Basta sentire questa musichetta che a tutti viene subito in mente l'ombra della sua inconfondibile silhouette, che va a sovrapporsi al profilo abbozzato del suo viso sullo schermo della nostra TV. Profilo inconfondibile, mento sfuggente, labbra pronunciate e la stazza ereditata dal padre. Come dice Truffaut durante la consegna del premio dell'American Film Institute a Hitchcock, anzi al signor Hitchcock, raggiungere le sue proporzioni non è facile, riferendosi soprattutto a quelle artistiche. Diventare il maestro del brivido, però, per lui è stato facile, perché in ogni sua pellicola, fin dagli esordi, ha cercato di trasferire al pubblico il suo piacere nel ricreare la sua realtà, fatta di suspense e di paura. Credo che tutto sia cominciato quando ero tra le braccia di mia madre. Avevo circa 6 mesi. Mi ha detto «Buh!», spaventandomi a morte. L'ironia è certamente uno degli aspetti più caratterizzanti di Alfred Hitchcock. Comunque due sono gli elementi che lo accompagneranno tutta la vita, e in questa battuta ci sono entrambi. La madre e le donne in generale, unite alla paura e alla suspense. Ed è proprio dell'incontro con una donna che parliamo oggi, una donna che influirà sulla sua arte, così come la sua arte influirà pesantemente sulla vita personale di questa donna. Ma andiamo per ordine. Alfred Hitchcock nasce il 13 agosto del 1899 a Leytonstone, vicino a Londra. Il padre William è un grossista di frutta e verdura, amante della buona cucina e del teatro, passioni che trasferisce al figlio. Alfred è il terzogenito, quindi alla morte del padre l'attività passa al primogenito, mentre lui può dedicarsi al cinema. La sua infanzia è costellata di episodi che ne fanno l'uomo e il regista che è. Riceve un'educazione cattolica, studia dai gesuiti e dai salesiani. Da qui la colpa e il peccato che pervadono i suoi film. All'età di 4 anni viene mandato dal padre a un vicino commissariato di polizia con un biglietto. Dopo averlo consegnato al poliziotto, questi mette il bambino in cella per 5 minuti, dicendo al piccolo Alfred: «Questo è quello che succede se si è cattivi». Un trauma dal quale si può far discendere il suo odio per la polizia e il tema degli innocenti incolpati ingiustamente, che spesso ricorrono nei suoi film. Ma Alfred ha la sua realtà. What is reality? Mi chiede cos'è la realtà? Io credo che la gente non voglia la realtà, né in teatro né nel cinema. Deve sembrare reale, ma non deve mai essere reale. Per chi come lui è passato dal muto al sonoro, dal bianco e nero al colore, dal cinema inglese a quello americano, la realtà ha subito molte trasformazioni, soprattutto quella che cerca di mettere nei suoi film. Gli piace la fotografia e la sua vena artistica la sfoga fin da subito nel disegno. La prima vera occasione arriva nel 1920, quando la casa di produzione Famous Players Lasky di Londra gli affida le didascalie dei titoli del film in produzione. Questo gli permette di avvicinarsi anche ad altri settori, come quello della sceneggiatura e del montaggio. Sono gli anni d'oro del cinema muto americano, Buster Keaton, Griffith e Chaplin. Di loro ama tutto. Smile, la canzone scritta da Chaplin per tempi moderni, è una delle sue preferite. Così come dirà molti anni dopo anche Michael Jackson, che ne fa una cover. Ogni cosa è pianificata, scritta in ogni piccolo dettaglio. Come molte persone che hanno cominciato col film muto, è l'azione che conta più delle parole. Ricordo, mentre giravamo L'uomo che sapeva troppo, eravamo alla Royal Albert Hall. Dovevo salire le scale mentre l'orchestra sinfonica di Londra suonava. Avevo molte parole da dire. Era un lungo dialogo che serviva anche a spiegare la storia del film. È stato un lavoro durissimo per ricordare tutte quelle parole. Alla fine della scena Hitch dice di rifare, perché parlavo così forte che non si sentiva l'orchestra. Chi parla è James Stewart, uno degli attori preferiti da Hitchcock insieme a Cary Grant. La musica ha un ruolo fondamentale. A volte è addirittura più importante delle parole per ricreare certe situazioni. Basta sentire queste poche note che vediamo subito un coltello dietro alla tenda di una doccia. Ma una cosa certamente fondamentale per lui è che tra il regista e gli interpreti del film si crei una buona sintonia, cosa che Hitchcock riesce a fare nell'arco della sua lunga carriera con alcuni grandi nomi, ai quali poi si affeziona. Tra gli attori, come già ricordato, James Stewart e Cary Grant, il simpatico e il seduttore, con i quali girerà diverse pellicole. Attori e attrici sono mali necessari, che dobbiamo tollerare nella nostra professione. Dico sempre che, a proposito di questo problema su attori e attrici, il signor Disney ha la giusta idea di cast. Se non gli piacciono gli attori, li può sempre cancellare. Sono gli attori, ma soprattutto le attrici, che interessano ad Hitchcock. Si deve creare un buon feeling sul set. Solo così si può amare il suo rigore nel creare una scena e vedere nella sua maniacale cura del dettaglio un'opportunità di crescita. Hitch, te lo devo dire. Ho fatto solo un film con te, ma ho imparato così tanto in quell'unico film, sia tecnicamente che sotto qualunque altro aspetto, che mi è servito per i 30 anni successivi. Chi parla è Jane Wyman, protagonista nel 1950 di Paura in palcoscenico, al fianco di Marlene Dietrich. Lei ha fatto solo un film col maestro del brivido, cosa che è successa a molte altre sue colleghe. Eppure ci sono attrici che sono riuscite a entrare nelle grazie del maestro e a seguirlo per alcuni anni. Hitchcock tende infatti ad innamorarsi artisticamente di un interprete e a volerla dirigere in vari ruoli. Il suo periodo americano gli fa incontrare ben due attrici che per un verso o per un altro lo tengono legato. Il suo cinema si può dividere in due. Il periodo inglese degli anni 20-30, quelli di Il giardino del piacere, L'aquila della montagna, Il pensionante, per citarne alcuni, e il periodo americano degli anni 40 in poi, anche se è nei film tra gli anni 50 e 60 che darà il meglio di sé, proprio quando avviene l'incontro con la donna di cui parliamo oggi. Nel primo periodo inglese c'era molta più spontaneità, credo, molto più lavoro istintivo, e nel periodo americano più calcolo. Questa è la differenza principale. Eppure la personalità di Hitchcock è già formata fin dall'inizio. Nei film inglesi c'è la sottile ironia che non lo abbandonerà mai e un'esasperata ricerca formale, mentre in quelli hollywoodiani c'è più attenzione verso il pubblico. La sua grande adattabilità ai nuovi canoni produttivi americani lo premia subito. Il suo primo film hollywoodiano è Rebecca, la prima moglie, un concentrato di suspense ancora con molti echi della vecchia Europa. Vince infatti un Oscar come miglior film nel 1941, l'unico Oscar vinto da Hitchcock. E là, tra il pubblico del suo primo periodo americano, c'è una ragazzina che ancora non sa quanto Hitchcock, gli Oscar e l'Europa saranno importanti anche per lei. A volte nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo. Così comincia Rebecca, dando inizio al suo periodo hollywoodiano. E proprio sulle rive del Mediterraneo, a metà degli anni 50, comincerà un altro periodo per Alfred Hitchcock, complice la stessa location e un'altra donna, che con le altre attrici condivide lo stesso colore di capelli. My leading ladies are svelte. Le mie donne preferite sono bionde e sofisticate. Non hanno il sesso stampato in faccia. In altre parole, le bionde tipo Marilyn Monroe non sono mai state il mio tipo, perché non c'è mistero per loro nel sesso. Il sesso è così ovvio in loro. Io preferisco doverlo scoprire, il sesso. The French are glad to die for love. Diamonds are a girl's best friend. Il riferimento a Marilyn è naturale. La bionda platino di A qualcuno piace caldo è l'icona del tempo, un simbolo assunto a mito, ma Hitchcock ha la mente altrove. La differenza che c'è fra il mistero e la suspense, quella di cui si serve Hitchcock, sta nel dare allo spettatore in sala degli indizi su ciò che sta per accadere, creando così l'attesa. Non c'è effetto sorpresa, ma una lunga costruzione dell'evento attraverso espedienti, escamotage, pretesti, a volte anche inutili o inverosimili, ma che servono al regista per ricreare la sua realtà, il suo racconto, e per portare lo spettatore all'interno della sua storia. Penso che il regista debba conoscere la psicologia del pubblico e debba anche sapere che il pubblico ama e si diverte nel vedere tutto ciò che viene utilizzato per ricreare la paura. Questo trucco Hitchcock lo chiama MacGuffin. MacGuffin. Da dove arriva il MacGuffin? In realtà non c'è una spiegazione logica. Ricorda un nome scozzese e lo stesso regista, durante un'intervista per spiegarlo, utilizza una storiella. Due uomini in treno hanno una conversazione. Uno chiede all'altro cosa ci sia nel pacco che ha messo sul portabagagli. L'altro risponde: un MacGuffin. E che cos'è un MacGuffin? Un marchingegno che serve a catturare i leoni sulle montagne Adirondack. E il primo risponde: ma non ci sono leoni sulle montagne Adirondack. Allora l'altro conclude: non è un MacGuffin. Ironia e humor sono alla base di ogni suo intervento, oltre che di ogni suo film. A chi gli chiede perché non abbia mai fatto commedie, risponde: ogni film che ho fatto è una commedia. E a chi chiede qual è il motivo principale per cui ha fatto il cinema? Il motivo principale? Soldi. Il grande schermo gli offre molte soddisfazioni. Oltre all'Oscar per miglior film a Rebecca la prima moglie, ha 5 nomination come miglior regista, così come per altri film. I prigionieri dell'oceano, Io ti salverò, La finestra sul cortile, Psycho. La statuetta però non arriverà mai. Gli anni 40 sono prolifici e sono caratterizzati dall'incontro con la prima bionda che lo seguirà per ben 3 film. Donna europea, scandinava per l'esattezza, di quelle bellezze algide che piacciono a Hitch, ma che sanno trasformarsi in donne fatali al momento giusto. Il suo nome è Ingrid Bergman. Congratulations. Congratulazioni all'American Film Institute, che oggi riconosce quello che il pubblico sa da 50 anni, che Alfred Hitchcock è un adorabile genio. E lo voglio ringraziare personalmente per una piccola cosa che mi ha aiutato attraverso tutta la mia carriera. Hitchcock è molto preciso quando prepara un film. Lui scrive ogni cosa su un foglio, qualunque piccolo dettaglio. Non sempre gli attori e le attrici si comportano come lui vuole. Lui è molto esigente. Ricordo che una volta sono andata da lui e gli ho detto, prima di una scena, io non credo di farcela a darti questo genere di intonazione, di sentimento. Credo di non poterti restituire questo tipo di emozione. E lui mi ha detto, Ingrid, fingila. Ingrid, fake it. Con Ingrid Bergman gira nel 1946 Notorious al fianco di Cary Grant, dove il famoso MacGuffin, l'espediente narrativo, è rappresentato dall'uranio nelle bottiglie di champagne, cosa che spaventa un po' tutti, tanto che nella versione tedesca, nel doppiaggio, viene fatto credere che nelle bottiglie ci siano dei diamanti. Nel 1949 gira Il peccato di Lady Considine, ma il primo è Io ti salverò, nel 1945, famoso anche per la rappresentazione del sogno del protagonista, disegnato da Salvador Dalí. Non riesco a capire bene che razza di posto fosse. Sembrava una casa da gioco, ma al posto dei muri aveva delle tende su cui erano dipinti dei grandi occhi. Un uomo con un enorme paio di forbici andava in giro a tagliare i drappeggi. Quando Ingrid lascia l'America per tornare in Europa, Hitchcock si sente orfano della sua bionda preferita. È alla ricerca della sostituta, eppure nessuna lo convince fino in fondo, anche se l'America ne ha già una in serbo per lui, una bionda che proprio in quegli anni si sta affacciando al mondo del cinema. Nel frattempo Hitch gira film con altre bionde, senza riconfermarle mai la seconda volta. Il vuoto lasciato da Ingrid deve essere colmato da un'attrice all'altezza della sua regalità e bellezza. L'occasione arriva nel 1953, quando il film diretto da Fred Zinnemann, Mezzogiorno di fuoco, uno dei più bei western di sempre, vince 4 premi Oscar. Uno va a Gary Cooper come migliore attore protagonista, uno è per il miglior montaggio, uno per la miglior colonna sonora e uno per la miglior canzone, Do Not Forsake Me di Tex Ritter. Dico sul serio, se non vieni via con me adesso, me ne andrò col treno di mezzogiorno. In quel film, Hitchcock viene colpito dall'interprete femminile. È una giovane attrice, prima d'allora ha fatto solo della TV e una piccola parte ne La quattordicesima ora di Henry Hathaway. È bella, altera, ha classe e soprattutto è bionda. Nel 1954 la vuole per il suo nuovo film, Delitto Perfetto, al fianco di Robert Cummings. Né lei né lui ancora sanno quale destino li attenderà dopo questo primo incontro. Una cosa è certa, Alfred ha trovato la sua donna, artisticamente parlando, come canta Ray Charles proprio in quell'anno. Destini incrociati. Destini incrociati oggi parla di brivido, di suspense e di bionde che fanno la differenza. Siamo ad Hollywood, è il 1953, e Alfred Hitchcock ha appena visto l'attrice che vuole per il suo prossimo film. È la moglie dello sceriffo Gary Cooper in Mezzogiorno di fuoco. La giovanissima e biondissima Grace Kelly. Grace Kelly. Da quell'incontro nasce un sodalizio che il maestro del brivido ha avuto in passato solo con Ingrid Bergman. Da quell'incontro nasce per Grace Kelly la possibilità di un futuro diverso e non solo professionale. Stocks have fallen in a week 30%, and a week ago they had fallen some 10% from the previous high of this year. È il 1929. L'America vive il suo crash finanziario e in casa Kelly nasce la terzogenita Grace Patricia. Il padre è un milionario di origine cattolico-irlandese, uomo facoltoso e sportivo, vincitore tra l'altro di una medaglia d'oro alle Olimpiadi nella specialità del canottaggio. È un ricco costruttore di successo. La sua famiglia d'origine ha raggiunto la ricchezza solo da poco. I Kelly, infatti, sono muratori, immigrati negli Stati Uniti da poco più di una generazione. La Grande Depressione non li tocca. Grace passa un'infanzia serena e agiata, coltivando, contro il volere del padre, il sogno di diventare un'attrice. Dopo essersi diplomata alla scuola superiore, contro l'opposizione della famiglia, nell'autunno del 1947 viene ammessa all'American Academy of Dramatic Arts di New York. Si trasferisce quindi nella Grande Mela in un pensionato per ragazze, il Barbizon Hotel. Bella presenza, spigliata, determinata, comincia come mannequin per le maggiori riviste femminili di moda, poi come debuttante a Broadway. Ha le idee chiare su quello che vuol fare, se ne accorge anche Cary Grant. Siete una ragazza singolare. Questo è un male. No, no, tutt'altro. Sapete quello che volete. Lo cercate e niente vi impedisce di ottenerlo. Bella, alta, bionda, elegante e sofisticata. Corpo esile e flessuoso, in straordinario contrasto con le bellezze giunoniche e formose del tempo, il suo vantaggio risiede proprio in questo. Avere un'immagine e una personalità esattamente contrarie a quelle imperanti. È la ragazza della porta accanto, quella che tutti vorrebbero sposare, di La finestra sul cortile. Ogni uomo è pronto a sposarsi quando trova la ragazza giusta. E Lisa Freeman è la ragazza giusta anche per chi abbia mezzo cervello e solo un occhio. Oh, ha tante qualità. Qualità queste che la favoriranno anche con Hitchcock, lui che non ama i tipi troppo esplicitamente sensuali come la Marilyn Monroe di A qualcuno piace caldo. Ha mai provato con le americane? Perché? Non ha sentito niente. Grazie lo stesso. Il debutto cinematografico arriva nel 1951, con una breve particina nel film drammatico La quattordicesima ora. L'anno successivo è Amy Kane, la moglie dello sceriffo Gary Cooper, nel leggendario western Mezzogiorno di fuoco. Il film che la porta all'attenzione anche del maestro del brivido, che conia per lei l'ossimoro ghiaccio bollente. Grace diventa così popolare che la MGM la mette sotto contratto facendole girare Mogambo di John Ford. Una storia drammatica, ambientata nella giungla del Congo e incentrata sul triangolo amoroso con Clark Gable e Ava Gardner. Questa pellicola, oltre a farla diventare una star di livello internazionale, le procura una nomination agli Oscar. La vincitrice come miglior attrice è Grace Kelly per Ragazza di campagna. L'Oscar arriva nel 1954. Ad aprire la busta un suo vecchio amico, William Golden. Grace è la prima attrice cui viene dato un Oscar dopo così pochi film. Grazie. L'emozione che provo è infinita. Vorrei solo ringraziare di cuore tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. Grazie ancora. In Ragazza di campagna è al fianco di Bing Crosby, verso il quale c'è una grande simpatia. Girerà con lui anche la sua ultima pellicola, Alta società, accompagnata da Frank Sinatra, che proprio in quegli anni canta I've got you under my skin. Un po' quello che succede con Grace Kelly e i suoi colleghi attori. Difficile dimenticare una tale bellezza dopo che la si è incontrata. Ma But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin, because I've got you under my skin. Il mondo ama Grace Kelly, ma non è facile nella Hollywood di quegli anni essere bella, famosa e allo stesso tempo nubile. I rotocalchi parlano di mogli gelose, di flirt nati sui set, di uomini che si contendono le sue grazie. I genitori cattolicissimi si oppongono a tutte le sue storie. Vogliono per lei il matrimonio perfetto. Persino Hitchcock ha un'opinione al riguardo, anche se, con la solita ironia, cerca di confondere il suo intervistatore un po' troppo curioso, non sapendo ancora che sarà proprio l'amore ad allontanarla da lui. Ci sono molti matrimoni ad Hollywood. Uomini che hanno tre o quattro mogli e viceversa. Penso che sia perché si incontrano sul set per interpretare scene d'amore e poi portano quella relazione nella vita e nella realtà, anche dopo le sei di sera. Questo credo sia il motivo. Si incontrano sul set e si innamorano di tutte le donne con le quali devono girare una scena. Il primo film con Hitchcock è Delitto perfetto, del 1954, girato in 3D per contrastare la nascente popolarità della televisione. Celebre nella pellicola il cameo del regista. Così come in ogni film del maestro del brivido, da Rebecca la prima moglie in poi, il pubblico sa che lui comparirà anche solo per pochi secondi. In questo caso, essendo il film girato all'interno di due stanze, trova una soluzione geniale. Si fa inserire in una fotografia di vecchi compagni di scuola. Grace è davvero perfetta. Lo stesso anno la vuole anche per La finestra sul cortile insieme a James Stewart. È la fidanzata di un fotografo immobilizzato a letto da una gamba ingessata che scopre un delitto guardando dalla finestra. Lei è sempre più brava, bella e sensuale al momento giusto. Come va la gamba? Mi duole un po'. Lo stomaco? Vuoto come una caverna. E la vita sessuale? Non troppo attiva. Hai nessun altro problema? Mm-hmm. Tu chi sei? È Grace Kelly, la bionda che ha colmato per Alfred Hitchcock il vuoto lasciato da Ingrid Bergman. È l'unica, insieme alla bionda svedese, con la quale gira ben tre pellicole. È proprio il suo ideale di donna e di attrice. La terza occasione per dirigerla, e nessuno dei due sa che è anche l'ultima, arriva nel 1955 con Caccia al ladro, al fianco dell'altro attore mito per Hitchcock, Cary Grant. Nel film, una commedia gialla, romantica e raffinata, la Kelly fa scintille con un sornione Cary Grant. Il film è girato interamente sulla Costa Azzurra, di cui è una cartolina pubblicitaria. Beh, che ne dite di questo posto? Bellissimo. Uno di quei paradisi da guida turistica dove un uomo sogna di finire i suoi giorni. Grace, mentre è all'apice della sua carriera e sta girando proprio con chi l'ha portata sulle coste del Mediterraneo a trovare il suo destino, sente che ha bisogno di fermarsi. Forse quella vita non le piace più. Nella celebre scena in auto sulla strada panoramica, Grace scorge dei magnifici giardini. Sono quelli del principe Ranieri di Monaco. Il suo copione prevede una battuta che Grace fa immediatamente sua. Ah, che splendida giornata! Non ho mai visto al mondo un posto così bello. Il suo destino sta per compiersi e Hitchcock ne farà le spese. È il 1955 e al Festival di Cannes, dove la MGM le ha chiesto di presenziare, Grace darà seguito a quella che sin lì è sembrata solo un'intuizione. In Riviera, tra una festa e un cocktail, tra velette, guanti e abiti da sera, si ascolta musica italiana. Destini incrociati. È il 1955. Siamo in Costa Azzurra. Hitchcock sta girando il terzo film con la sua attrice preferita, Grace Kelly. Dopo Delitto perfetto e La finestra sul cortile, è la volta di Caccia al ladro. Lei è la donna ideale per il maestro del brivido. Solo lei, dopo Ingrid Bergman, è riuscita a farsi dirigere per più di una pellicola da Hitchcock. La scelta della location, però, introduce in questo matrimonio professionale un imprevisto che darà all'attrice una nuova carriera, se così si può chiamare, e al regista un nuovo vuoto da colmare, artisticamente parlando. Posso farvi una domanda indiscreta? Speravo tanto che la faceste. Cosa vi aspettate con precisione da me? Forse molto più di quanto intendiate offrirmi. Lo so. Siete in Europa a comprarvi un marito. L'uomo che io voglio non ha prezzo. Beh, questo mi elimina. Siamo nel Principato di Monaco, il penultimo stato al mondo per superficie. Dopo c'è solo lo Stato del Vaticano. Il periodo storico gioca una parte importante in tutte queste coincidenze che vedono la Costa Azzurra come location del film di Hitchcock. La storia di Monaco coincide praticamente con le vicende della famiglia Grimaldi. Un accordo stipulato con la Francia nel 18 stabilisce che se dovesse esaurirsi la linea dinastica locale, il Principato di Monaco diventerebbe uno stato autonomo in seno alla Francia, quindi senza eredi diretti del principe, niente principato. Nel 1949 Ranieri III diventa principe e ha una lunga relazione con Giselle Pascal, che finisce quando la donna scopre di essere sterile. Il principe ha quindi la necessità di trovare una moglie e di avere dei figli. L'economia del paese è controllata da vicino anche dal ricco armatore greco Aristotile Onassis, che, preoccupato per le sorti del principato, si prodiga per cercare moglie al principe Ranieri. Pare che cerchi di sondare le intenzioni di Marilyn Monroe, la quale nemmeno sa dove si trova Monaco, e perciò declina l'invito, anche se diventare una principessa non le sarebbe di certo dispiaciuto. Perché non comprate una villa come questa? I palazzi sono un privilegio dei re, noi siamo gente comune, anche se con molti soldi. Grace ha lo stile che a Marilyn fa difetto, secondo il maestro del brivido. Le donne del tipo Monroe, Bardot o Lauren sono per Hitchcock troppo sfacciatamente seducenti per essere interessanti. Lui vuole la bionda glaciale, quella che sa trasformarsi in femme fatale solo se ce n'è bisogno. E pensare che se Marilyn avesse detto sì, lui non si sarebbe trovato orfano della sua bionda preferita di lì a un anno. Il 6 maggio del 1955, alle 13.30, su richiesta della rivista Paris Match, Grace accetta di fare un servizio fotografico nella casa del principe di Monaco. Grace si presenta a palazzo con un abito di seta nera a fiori rosa e verdi e la solita eleganza di chi forse ha scritto nel DNA che diventerà una principessa. In mano, la borsa che prenderà proprio il suo nome, disegnata da una famosa maison francese. Il destino si sta compiendo. Ranieri la porta a far visita ai giardini che qualche mese prima, durante le riprese di Caccia al ladro, aveva scorto dalla panoramica. L'incontro dura meno di un'ora. Sei mesi dopo, lei e Ranieri sono fidanzati. È per questo che siete venuta qua su, eh? Finito il Festival di Cannes, l'attrice torna ad Hollywood e interpreta prima il dramma romantico Il Cigno di Charles Vidor nel ruolo di una giovane principessa di un paese mitteleuropeo. Oh mio tesoro, da quando sei nato ho sempre pregato che questa eventualità si avverasse, che tu diventassi regina. Poi è la volta della commedia musicale Alta Società con Bing Crosby e Frank Sinatra, una feroce satira del mondo dorato dal quale proveniva e al quale di lì a poco sarebbe definitivamente ritornata. Alta Società è la sua ultima apparizione sul grande schermo. Il matrimonio col principe Ranieri si svolge il 18 aprile del 1956. In mondovisione alla TV monegasca dalla cattedrale di San Nicola, assediata da giornalisti e fotografi, il sogno di una ragazza si compie. In un abito con merletti a punto ago rosa di 125 anni, sete e taffetà tempestate da migliaia di perline. Una favola che farà sognare un'intera generazione. Finisce così la sua vita di attrice. Comincia quella della principessa. La separazione è avvenuta tra Hollywood e Grace Kelly, ma soprattutto tra Grace Kelly e Hitchcock, che ne sente terribilmente la mancanza. Dal 55 il maestro del brivido si dà anche al piccolo schermo, in attesa della nuova Grace. Sulla CBS va in onda Hitchcock Presenta, una serie dove Hitchcock introduce, con la sua flemma e il suo profilo inconfondibile, alcuni cortometraggi basati su romanzi gialli. Molti sono diretti da lui. La serie è stata anche un trampolino di lancio per registi ed attori che hanno guadagnato notorietà grazie a lui, come Sidney Pollack, Robert Altman, Steve McQueen, Robert Redford, Burt Reynolds, solo per citarne alcuni. La fine degli anni 50 segna comunque un profondo cambiamento nella poetica di Hitchcock. Il brivido adesso è un elemento indispensabile per la resa spettacolare e per osservare la quotidianità con occhi irrequieti. Questo maggior realismo della rappresentazione conferisce ai suoi film una dimensione maggiormente angosciante. Simbolo di questo nuovo modo di intendere il cinema è forse il film più conosciuto del regista inglese, Psycho, del 1960. Più un horror che un thriller. Nella celebre scena della doccia ci sono 70 inquadrature diverse montate in 45 secondi di pellicola. Claustrofobica realtà, quella senza Grace Kelly. Gli anni dopo Caccia al ladro sono una ricerca continua della nuova bionda che può prendere il suo posto. Cosa che sembra arrivare con Tippi Hedren, interprete di Uccelli, nel 1963 e di Marnie nel 1964. due pellicole con la stessa attrice. A Hitchcock non sembra vero. Marnie in realtà avrebbe dovuto segnare il ritorno al cinema di Grace Kelly, che per motivi di ragion di Stato però deve rinunciare. Sembra sconveniente che una principessa interpreti il ruolo di una cleptomane innamorata di Sean Connery. Così Tippi Hedren ha la sua seconda pellicola e Grace la sua famiglia, lontana dai riflettori. Mi piaceva molto recitare. Amavo lavorare in teatro, nel cinema. Quello che non mi piaceva era essere una star del cinema, avere una vita pubblica di quel genere, con tutto quello che comportava. C'è una grande differenza adesso. Adesso la sua missione è dare al principato il suo erede e vivere la sua favola. Nel 1957 nasce Carolina. Nell'arco di 8 anni seguono Alberto, l'erede, e Stephanie. Grace non ha il tempo di seguire però l'intera parabola dei figli. Il 13 settembre 1982, tornando dalla Francia insieme con Stephanie, cade con l'auto in un burrone. Fuori da una curva, forse presa troppo veloce, sulla stessa strada dove anni prima aveva girato Caccia al ladro. La ragazza balza fuori in tempo. La principessa resta incastrata tra i rottami. La portano in ospedale, sopravvive 36 ore. Aveva 52 anni. Il maestro del brivido non ha avuto modo di vivere questa tragica separazione, quella definitiva questa volta dalla sua Grace. Muore infatti 2 anni prima, nell'aprile del 1980, senza misteri o suspense. Proprio quell'aprile, una bionda di nome e di fatto impazza nelle classifiche di tutto il mondo. E Blondie, quasi a salutare chi per le bionde aveva sempre avuto un'adorazione particolare. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.